Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla Brexit, respinto il ricorso del governo inglese, la Corte Suprema decide che il Parlamento dovrà esprimersi sull'uscita dall'Europa. Al Rigopiano si continua a scavare tra neve e macerie, col Diretta intanto denuncia nelle Marche in 5 mesi arrivate 2 stalle provvisorie su oltre 300. La battaglia per le generali, nuovo balzo del titolo in borsa, l'azienda compra il 3% di Intesa San Paolo per disinnescare il rischio scalata. Un'operazione contro l'Andrangheta, sequestrate 8 tonnellate di cocaina per un valore di 1.600.000.000 di euro. 50 indagati per assenteismo in un comune nel napoletano. Alcuni timbravano e andavano a giocare al gratta e vinci, danno da 102.000 euro. La magia di Federer, a 35 anni e dopo l'assenza, arriva in semifinale agli Australian Open. Sarà in campo contro un altro svizzero, Wawrinka. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. Prima di tutto e prima di andare a parlare di Brexit, due notizie. La prima riguarda il delitto di Garlasco, ossia l'omicidio di Chiara Poggi, notizia appena battuta dalle agenzie. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'istanza di revisione del processo per il quale l'ex fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. La richiesta di revisione del processo era stata depositata dai legali di Stasi lo scorso dicembre. L'altra notizia riguarda un elicottero che è caduto nell'Aquilano in Abruzzo, un elicottero del 118 precipitato tra il capoluogo L'Aquila e Campo Felice, era impegnato in una normale operazione di soccorso, quindi nulla a che fare con le vicende di queste ultime ore, vicende sulle quali torneremo tra un attimo, ma prima di tutto gli aggiornamenti dalla Gran Bretagna, la decisione della Corte Suprema. Il punto sulla cronaca di questa decisione con Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno, è quindi una sconfitta per la linea fin qui seguita dal governo britannico, la sentenza odierna della Corte Suprema che ha stabilito che l'avvio dei negoziati per uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sarà possibile solo dopo un voto parlamentare. Il verdetto conferma quanto già stabilito in primo grado, rigettando il ricorso del governo May. Allo stesso tempo, la Corte Suprema ha escluso che le assemblee regionali scozzese, gallese e nordirlandese possano avere un qualsiasi potere di veto su Brexit. Non è stata una decisione presa all'unanimità, ma comunque a larga maggioranza, 8 voti contro 3. Siamo delusi, questo è il primo commento del procuratore generale Jeremy Wright, che ha però garantito che l'esecutivo May farà tutto il necessario per rispettare la sentenza. Wright ha puntualizzato come questo verdetto non metta in discussione il risultato del referendum e ha annunciato per oggi la presentazione alle Camere di una legge ad hoc per l'avvio delle procedure di divorzio dall'Unione Europea. A breve è attesa anche la dichiarazione del ministro per la Brexit, David Davis. Esultano i promotori del ricorso, solo il Parlamento è sovrano, ha dichiarato Gina Miller, la donna d'affari che aveva sfidato insieme ad altri sul piano legale il governo May, mentre l'opposizione laburista ha annunciato che non contrasterà in Parlamento l'avvio del negoziato per il divorzio da Bruxelles, ma ha annunciato 3 emendamenti alla legge che il governo depositerà per consentire la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona e l'avvio conseguente dei negoziati per la Brexit entro la scadenza che si era prefissato, cioè fine marzo. È tutto. E grazie dunque a Sergio Nava per questo aggiornamento e per un'analisi, per un commento. Abbiamo in diretta Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Allora Leonardo, cosa succederà ora e come si muoverà il governo May? Ma il governo May si muoverà come prevedeva di fare prima della sentenza, cioè presenterà questo disegno di legge con la speranza di riuscire ad approvarlo entro il 30 marzo. In realtà si avvia un iter parlamentare che apre molte scenari di grande incertezza, non solo per la volontà dei comuni, ma soprattutto per quella dei Lord, che da sempre sono i più recalcitranti all'idea della Brexit. Nessuno crede che comuni e Lord alla fine saranno nella posizione, come dire, di far naufragare la volontà espressa con il referendum, però pianteranno dei paletti sia sui tempi sia sulle modalità della Brexit, quindi per esempio l'adesione o meno al mercato interno, che è uno dei passaggi centrali, potrebbe in qualche modo ritornare in discussione. La Brexit si farà, quale Brexit resta ancora molto da vedere. E ti ringrazio, grazie dunque a Leonardo Maisano anche per questa analisi. La reazione dei mercati, Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora, subito dopo la decisione della Corte Suprema della Gran Bretagna, la sterlina si è indebolita, niente di particolarmente rilevante, ma comunque è scesa sia nei confronti del dollaro che nei confronti dell'euro. Il cross con il biglietto verde è a 1,2478 e si è allontanato appunto dal top segnato oggi di 1,2534, un po' meno mosso il cambio euro sterlina che si attesta 0,8607 dal top di oggi di 0,8633. Stabile anche la borsa, Londra più 0,22%. Diciamo che un po', Simone, tutti i movimenti che si dovevano registrare sia sul fronte valutario che azionario si sono già registrati dal referendum in avanti e ormai le decisioni anche della Corte sono più che digerite dal mercato, quindi direi che la reazione appunto è questa, abbastanza di stabilità. Questo sul fronte Brexit. In realtà la giornata di borsa si caratterizza, Deborah, ancora per la battaglia intorno alle generali, che a questo punto sembra proprio una battaglia, cioè ieri c'era qualche incertezza, oggi mi sembra chiaro. Erano anni che non vedevamo queste storie a movimentare appunto Piazza Affari. Allora, sicuramente tutti i riflettori degli operatori europei sono puntati su Milano, che guadagna l'1,23%, quindi molto di più rispetto a quello che guadagnano le altre borse europee, per il rialzo che era a due cifre fino a pochi secondi fa di generali e Mediobanca, che comunque continuano a guadagnare più di 9 punti percentuali. Si è scatenata la battaglia per il controllo del Leone di Trieste, a quanto pare per questo presunto interesse di Intesa San Paolo, che invece a Piazza Affari oggi sta segnando un ribasso del 4,84%, perché questa possibile scalata non viene a vista dal punto di vista di Intesa San Paolo, di grande auspicio appunto da parte degli operatori. Generali più 9,75, dicevamo, Mediobanca più 9, e la battaglia potrebbe anche spostarsi, se Intesa San Paolo non la spuntasse su Generali, appunto sulla Galassia Mediobanca, che è il primo azionista di Generali con una quota del 13%. Addirittura qualche operatore è anche molto complicato da ricostruire, comunque sostiene che un'alternativa strategica per Intesa all'ipotetico lancio di un'offerta pubblica di scambio su Generali appunto potrebbe essere rappresentata dall'acquisto della quota di Unicredit in Mediobanca all'8% e il successivo lancio di un'offerta su Piazzetta Cucce. In questo modo diventerebbe primo azionista indiretto appunto di Generali. È difficilissimo da spiegare ai nostri ascoltatori, di fatto c'è una guerra appunto che appassiona gli operatori, ma non solo, che ha l'obiettivo di creare presumibilmente o il primo polo di banca assicurazione in Italia o comunque di difendere Generali da una potenziale scalata da parte di altri soggetti internazionali, o dei francesi di AXA o dai tedeschi di Allianz. Sicuramente ne continueremo a parlare. C'è un board di Generali appunto fissato per domani a Milano, si deve esaminare l'uscita di scena del direttore generale del gruppo Alberto Minali, ma naturalmente in primo luogo si valuterà anche la situazione, Simone. E grazie dunque a Deborah Rosciani anche per questo aggiornamento. Dunque adesso torniamo in Abruzzo all'hotel Rigopiano, e non solo là, i due fronti, quello del lavoro dei soccorritori, quello che sta succedendo nei dintorni, e il fronte dell'inchiesta naturalmente. Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che non ci sia più nessuno sotto le macerie o sotto la neve, ha assicurato il funzionario del Dipartimento di Protezione Civile Luigi D'Angelo, facendo il punto sulle ricerche. E intanto altri 5 corpi sono stati recuperati nelle ultime ore dai vigili del fuoco all'hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio da una valanga causata dalle scosse di terremoto. Si tratta di 3 uomini ritrovati nella notte e di 2 donne stamani poco dopo le 9, che devono ancora essere identificati. Con quest'ultimo ritrovamento sale così a 14 il bilancio delle vittime accertate, 8 uomini e 6 donne, mentre quello delle persone disperse scende a 15. Delle 14 vittime ne sono state identificate finora solo 6. Sono invece 11 le persone messe in salvo finora, tra queste 4 bambini. 2 di loro, Edoardo e Samuel, sono rimasti orfani e al momento restano sotto protezione psicologica nel reparto di pediatria all'ospedale di Pescara. Dimessi dalla struttura sanitaria per tornare finalmente a casa invece sia la famiglia Parete che i due fidanzati di Giulia Nova, Vincenzo Forti e Giorgia Galassi. Questi ultimi, dalle 9.30 di stamani, stanno ricostruendo la loro esperienza al comando dei carabinieri di Pescara. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I ritardi nei soccorsi, la mancata evacuazione, la valutazione se l'albergo potesse o no stare lì. tanti fronti sui quali indaga la Procura di Pescara, che procede per disastro e omicidio plurimo colposo. L'allerta valanghe, arrivata 4 giorni prima, avrebbe dovuto portare allo sgombero della struttura, e perché vennero ignorati gli allarmi partiti dal ristoratore Quintino Marcella, che per ben 4 volte si sentì rispondere da una funzionaria della prefettura: non è vero, l'albergo non è crollato. Cita la funzionaria anche la telefonata di 2 ore prima con il direttore dell'albergo, il quale smentisce, ma lui non si trovava a Rigopiano, bensì a Pescara, e quindi non poteva sapere. Problemi nella comunicazione che però, essendo avvenuti nel post valanga, per la procura avrebbero avuto una rilevanza non epocale. Insomma, a ballare sarebbe solo un'ora. L'attenzione è dunque puntata soprattutto sulla mancata evacuazione, ma anche, andando ancor più indietro nel tempo, su quella denuncia del forum H2O in base alla quale il resort sarebbe stato costruito sopra colate e accumuli di detriti preesistenti, compresi quelli da valanghe. Insomma, la domanda più scottante è: l'hotel poteva o no essere costruito lì? Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E torneremo nelle aree colpite dal maltempo e dal terremoto nel nostro giro per l'Italia, soprattutto ancora una volta con le grandi preoccupazioni che ci sono da parte dei sindaci e degli amministratori locali in genere sull'allarme lanciato nei giorni scorsi dalla Commissione Grandi Rischi sulla possibilità di un nuovo grande sisma che colpisca il centro Italia. Grande preoccupazione, grande difficoltà nel non sapere esattamente come agire. Parleremo dunque con i sindaci. Intanto andiamo in Calabria per il maxi sequestro di droga. 54 ordinanze di fermo e altre 20 persone indagate, poi 8 tonnellate di cocaina sequestrate e beni per 8 milioni sottratti alle cosche. L'operazione Stammer, secondo la DDA di Catanzaro, avrebbe disarticolato un potente cartello nato dalla partecipazione di 'Ndrangheta e narcos colombiani per immettere cocaina, ma anche eroina e hashish, in tutta Europa. La droga arrivava nei porti di Gioia Tauro, ma anche Napoli, Livorno e Genova. Ecco il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. È un'indagine completa, perché non solo abbiamo sequestrato 8 tonnellate di cocaina, quindi creando un danno di 1.600.000.000 di euro, siamo riusciti ad indagare e a fermare questa notte moltissimi degli attori protagonisti. Nel corso dell'indagine è stato possibile ricostruire un progetto, poi non realizzato, di trasporto di ingenti quantitativi di cocaina anche a mezzo di aerei attraverso l'aeroporto di Lamezia Terme. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. In Campania, adesso a Giugliano, per una nuova inchiesta contro l'assenteismo tra gli impiegati pubblici. Un nuovo scandalo, furbetti del cartellino, tutto filmato, con i protagonisti immortalati dai video investigativi mentre frugano nelle tasche e poi strisciano il badge anche per altri dipendenti comunali assenti o mentre fanno passare il tempo all'esterno del luogo di lavoro per motivi vari, anche futili. C'era chi andava via ad occuparsi di faccende private o addirittura a giocare al gratta e vinci. Coinvolti nel sistema in 50 nel comune di Giugliano in Campania, tutti indagati. 18 sono stati sospesi dall'esercizio del pubblico ufficio, accusati del reato di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazione in concorso. In 44 falsificavano la presenza, inducendo un errore lente nel calcolo delle remunerazioni. Altri 6, responsabili di servizi di vari uffici del comune, hanno invece taciuto e omesso di denunciare all'autorità giudiziaria le condotte del personale e sono indagati per omessa denuncia. E mentre le norme sui furbetti sono da revisionare dopo la bocciatura della consulta, il Codacons chiede il licenziamento in tronco. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo aperto con una sentenza importante, quella della Corte Suprema Britannica sulla Brexit, che ha deciso appunto che dovrà votare il Parlamento sulla Brexit, e c'è un'altra sentenza molto attesa, questa volta italiana, è quella che riguarda la legge elettorale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, in corso alla Corte Costituzionale l'esame sull'Italicum sotto la lente dei giudici della consulta, la legittimità del ballottaggio, il premio di maggioranza e capilista bloccati, le multicandidature con l'opzione del candidato di scegliere in quale collegio essere eletto, rilievi giunti dalle ordinanze di ben 5 tribunali, la decisione dopo la Camera di Consiglio che sarà ovviamente a porte chiuse. La sentenza è attesa per stasera, ma potrebbe anche anche slittare a domani. La consulta non lascerà vuoti normativi, ovvero la legge elettorale sarà immediatamente applicabile, ma il PD preme per andare alle urne con il ripristino del Mattarellum. Nessun inciuccio subito al voto, invece, chiedono Lega e Movimento 5 Stelle. I grillini, lo ricordiamo, questa è una nota politica, smentiscono possibili alleanze con Carroccio e Fratelli d'Italia. Per il presidente del Senato Piero Grasso, invece, bisognerà attendere le motivazioni della Corte e poi, semmai, pensare alle urne. A te, Simone. Grazie dunque, Elisabetta Fiorito, l'analisi di Daniele Biacchessi. Nelle prossime ore conosceremo la decisione della consulta sull'Italicum, decisiva per il futuro del sistema elettorale italiano. Il ballottaggio dovrebbe essere eliminato. Su questo punto concordano giuristi ed esperti di leggi elettorali provenienti da culture politiche tra le più varie. Infatti, sistema bicamerale e ballottaggio sono in conflitto tra loro, anche se il ballottaggio non è incostituzionale in sé. Con ogni probabilità il premio, la lista che raggiunge il 40%, non sarà toccato. In dubbio c'è anche la legittimità dei capilista bloccati, cioè quelli indicati dai partiti e sottratti al voto di preferenza, a differenza degli altri candidati. Il problema a questo punto è se la sentenza della Corte Costituzionale è auto-applicativa. In quel caso bisognerebbe distinguere il piano giuridico da quello politico, perché in teoria tutte le sentenze sono auto-applicative. In sostanza la Corte non può lasciare dei vuoti legislativi, tanto più in materia elettorale, o comunque non può lasciare dei vuoti che non siano sanabili con un decreto, perché altrimenti si paralizzerebbe l'elezione del Parlamento. Così dunque Daniele Biacchessi, siamo allo sport, oggi soprattutto il tennis. Beh, Dario Ricci, ne parlavamo giusto ieri, no? Di Roger Federer, dunque semifinali. Semifinali di questo Australian Open per il divino. Beh, oggi mi è venuta in mente una frase un po' forte: se Dio giocasse a tennis si chiamerebbe Roger, perché onestamente quello che sta facendo questo campione è qualcosa di straordinario. Ricordiamo, 6 mesi di stop per i guai al ginocchio sinistro dopo Wimbledon, torna in Australia e conquista subito la semifinale. Vado a memoria, dovrebbe essere la 41esima in uno slam, battendo in 3-7 poco più di un'ora Misha Zverev. Adesso se la vedrà con suo compagno in nazionale Stan Wawrinka. Chiaramente duello tutto svizzero, ma Federer che ha anche dei debiti di riconoscenza con Wawrinka, perché la Coppa Davis che la Svizzera ha conquistato un paio d'anni fa a Lille in trasferta contro la Francia porta proprio soprattutto la firma di Stan De Man. E poi, e chiudo, occhio però anche allo sci, perché a Plan de Corones, gigante femminile, abbiamo la Brignone prima nella prima manche e terza la Bassino, e adesso scatta la seconda, quindi mi sa che ci toccherà rivederci presto. Ci rivedremo presto, se arriveranno naturalmente notizie buone, soprattutto in corso d'opera. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e ricominciamo, come si diceva, dalle zone colpite da maltempo e terremoto, soprattutto per capire che impatto stanno avendo le dichiarazioni della Commissione Grandi Rischi sulle popolazioni e soprattutto sui sindaci, che come già si diceva e già vi raccontavamo ieri, in questo momento non sanno letteralmente che fare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della Brexit e della decisione della Corte Suprema, abbiamo parlato dell'Abruzzo dove si continua a scavare tra neve e macerie e nel frattempo si indaga, abbiamo parlato della battaglia per le generali, di una maxi operazione contro l'Ndrangheta con 8 tonnellate di cocaina sequestrate. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da un paese che si chiama Borbona ed è in provincia di Rieti. Siamo in linea con la sindaca Maria Antonietta Di Gaspare. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo in un'area ovviamente colpita dal terremoto, con il 70% degli edifici inagibili. Siamo a 2 passi dalla faglia di Monte Reale, non lontano dalla diga di Campotosto. Come vanno le cose, sindaca? Le cose vanno nel pieno della disperazione della mia popolazione, che ormai è veramente giunta in lacrime dopo 5 mesi costanti di terremoto. 5 mesi costanti di terremoto e un allarme che si propaga. Sta, stanno arrivando molti segnali da alcuni suoi colleghi e non solo da loro. Per dare un'idea, c'è anche il prefetto di Teramo che ha rilasciato una dichiarazione poco fa dicendo: ma che cosa dobbiamo fare? Evacuare tutto il centro Italia? Per questo allarme è lanciato una commissione grandi rischi, no? Sull'ipotesi di un forte terremoto tra il sesto e il settimo grado di magnitudo. Come la state vivendo anche questa cosa, anche come amministratori locali, oltre che come rapporto con la popolazione? Come amministratore locale, logicamente, alla luce di questi allarmi, io sono due notti che non dormo nel tentativo di pensare quanto è nelle mie capacità di fare, quanto posso da piccolo sindaco fare per mettere in sicurezza la popolazione. Sto dando il massimo delle raccomandazioni, sto cercando di allontanare tutte le persone che stanno in una situazione critica, ed oggi alle 18 faccio un incontro pubblico con i miei cittadini per condividere principalmente questo stato di paura totale e per prendere delle decisioni insieme. Indubbiamente è ora che qualcuno ci dia delle risposte un po' più certe, perché non si può parlare di terremoto tra il sesto e il settimo grado senza poi fare delle azioni conseguenti. Hanno messo in ginocchio l'Italia centrale. Senta una cosa, Di Gasperi, ha chiesto anche un supporto psicologico per i suoi cittadini? Sì, assolutamente fondamentale, perché c'è gente in lacrime, c'è gente che trema, c'è gente che non dorme più la notte, e c'è gente che vorrebbe delle risposte che indubbiamente non esistono a questo punto, io non, quantomeno non sono in grado di darle, e hanno bisogno di essere supportati, perché poi le stesse persone hanno i figli, trasmettono questa loro stessa ansia ai bambini, e rischiamo di creare il caos psicologico da qui ai prossimi anni, e quindi va tamponata immediatamente questa situazione. Grazie Maria Antonietta Di Gaspare, sindaca di Barbona, così come immagino una situazione non dissimile per certi aspetti da quella di Amandola, e siamo in provincia di Fermo con Adolfo Marinangeli, che è il sindaco. Buongiorno Marinangeli, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Vorrei partire però dalla situazione pratica. Da quel che ho capito, voi ancora avete delle frazioni, se non isolate, comunque nelle quali non arriva l'elettricità. Ci dà un quadro della situazione? Sì, sono 8 giorni precisamente che in alcune frazioni della mia città non c'è energia elettrica. Lo abbiamo urlato, strillato da giovedì scorso. Poi alla fine qualcuno ha deciso che forse, visto che i danni erano ingenti, potevano mettere dei gruppi elettrogeni, ma l'hanno deciso solo venerdì, vicino alle cabine di trasformazione. In alcune zone è tornata energia. Ne ho 6 ancora, e sono frazioni di alta montagna, oltre i 1000 metri, in un'area che è fortemente terremotata. Area fortemente terremotata, senza energia elettrica. Lei è riuscito a prendere contatti con queste persone, sì o no? Non ho capito, mi scusi. È riuscito a prendere contatti con queste persone, sì o no? Con le assolutamente persone? Sì, noi siamo in contatto telefonico, lo siamo stati tutti questi giorni. E in arrivo, quando siamo arrivati con i mezzi di spazzaneve, immediatamente. Purtroppo sull'energia elettrica però non abbiamo né competenze né capacità né fondi per fare qualcosa. Abbiamo portato dei piccoli gruppi elettrogeni nelle famiglie, ma non è questa la soluzione. Come lo state vivendo questo allarme terremoto, sindaco? Beh, la stiamo vivendo in maniera molto tragica. Noi oggi, se lei ci pensa, sono 5 mesi che viviamo in questa tragedia completa. 5 mesi dal 24 di agosto che nella mia città quasi tutte le notti abbiamo terremoto. E poi è arrivata la neve, sono arrivati 2 metri di neve. Anche da voi. E quindi naturalmente il tutto ad aggravare la situazione. Ci fa notare un ascoltatore, dice, poi all'Aquila condannarono gli esperti per non aver o almeno li mandarono al processo per non aver dato l'allarme, ora che l'hanno dato vengono accusati di aver causato il panico. Come vedete è chiaro che c'è un problema su questo fronte, un problema appunto di responsabilità, di quando dare l'allarme, di quando non darlo, così come c'è, Marinangeli, un problema di responsabilità dei sindaci, perché c'è anche quel tema, no? Se succede qualcosa e io non ho evacuato una scuola o non ho evacuato delle abitazioni o degli uffici pubblici, che cosa succede a me, no? Ma guardi, è il sistema che è andato in tilt. quando una commissione grandi rischi mi dice che su 5 regioni, perché la collega sindaco che avete intervistato un attimo fa non ha, ha omesso di dire, sono 5 regioni, allora noi diamo una risposta alle popolazioni che vivono in 5 regioni, oppure dobbiamo trovare altre soluzioni. E la soluzione è quella di definitivamente di mettere mano a tutto il patrimonio edilizio, ma sono anni che si strilla questo, non si può dare la colpa ai sindaci, i sindaci sono anche padri, sono nonni, sono fratelli. Pensate che i sindaci non abbiano un cuore o che i sindaci non stanno lì a pensare giorno e notte a quello che succede ai propri cittadini? Certo, comprensibile. Mi dice solo una curiosità. Ho scoperto che avete una chat tra voi con dentro 200 amministratori locali e vi scrivete forse sulle... Forse di più. Questo è stata un'ottima iniziativa dell'ANCI, un'ottima iniziativa alla quale va ringraziato. Noi abbiamo la possibilità, un piccolo comune come il mio, un sindaco di un piccolo comune, ho la possibilità di scrivere un mio post al presidente De Caro. Immediatamente, so che lui lo legge perché mi ha risposto più volte, so che Enzo Bianco dall'altra parte mi risponde perché lo fa tutte le sere, è una cosa molto molto bella e è forte lo spirito di unione tra noi sindaci. Su questa chat abbiamo proprio commentato quello che lei sta dicendo. Forse sarebbe il caso di inserire in chat anche qualcuno della Protezione Civile, così hanno le informazioni in linea diretta da voi. Intanto la ringrazio, grazie Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola, siamo in provincia di Fermo, ci spostiamo a Milano e cambiamo argomento. Roberto Carlo Rossi è il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Titolo dal Corriere della Sera, edizione milanese, a processo il medico contrario ai vaccini. Quindi si comincia, lo ha fatto in parte anche l'Ordine dei Medici di Firenze. Voi che cosa state facendo? Ma no, questa fa parte dell'attività che noi quotidianamente facciamo. Ci sono state alcune segnalazioni e quindi su queste segnalazioni noi stiamo prendendo informazioni come è doveroso e come dice la legge, insomma. Sì, segnalazioni su questo Dario Miedico, epidemiologo molto attivo nel Comilva, il coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione e Tutela dai Diritti dei Danneggiati da Vaccino, questo il nome appunto del Comilva, che sospettate essere invece più che uno che si occupa di danni provocati dai vaccini, che pure in alcuni casi esistono, proprio un antivaccinista vero e proprio. Sì, allora ovviamente io sui casi singoli non posso dire assolutamente nulla perché questo è proprio vietato, insomma non si può fare. Diciamo in linea di principio che la federazione ha giustamente fatto un documento a livello nazionale che ribadisce l'importanza della terapia vaccinale e raccomanda, ma come è sempre stato peraltro, a tutti gli ordini periferici di attuare una sorveglianza che peraltro, ribadisco, c'è sempre stata, però insomma in questa epoca in cui a volte si mette un po' in discussione, e ripeto non sto parlando del caso singolo ma in linea generale. Sì, perché il caso singolo è ancora in fase istruttoria, mi sembra. Assolutamente, Rossi, no? Sì, non si può assolutamente entrare nel merito, e poi voglio dire siamo veramente nelle primissime fasi. In linea di principio però è molto importante ribadire appunto, scusate il bisticcio, l'importanza della terapia vaccinale, perché il fatto poi di non vaccinarsi non ha solo una ricaduta personale per chi non si vaccina, ma c'è anche una ricaduta sulla comunità, in quanto ovviamente l'individuo non è più protetto e quindi può essere lui stesso fonte poi di diffusione di vari agenti patogeni. Quindi è una responsabilità in più, insomma, ecco. La ringrazio, grazie Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo e nel nostro giro per l'Italia andremo a Roma. Ricorderete la vicenda di San Basilio, quando una famiglia di egiziani doveva sostanzialmente andare in una casa popolare. Ci fu una sorta di rivolta degli abitanti di San Basilio, del quartiere di San Basilio. Ebbene, più o meno la stessa cosa, forse forse per certi aspetti peggiore, è successa nella zona del Trullo, e ne parleremo col presidente del municipio. Una famiglia marocchina doveva prendere possesso di una casa, casa che era occupata abusivamente da due italiani. Sostanzialmente non sono riusciti a farlo perché c'è stata una protesta dell'estrema destra davanti a quelle porte. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: la Brexit, il governo inglese sconfitto in giudizio, la Corte Suprema decide che il Parlamento dovrà esprimersi sull'uscita dall'Europa. Al Rigopiano si continua a scavare tra neve e macerie, col Diretti denuncia nelle Marche in 5 mesi arrivate 2 stalle provvisorie su oltre 300. La battaglia per le generali, nuovo balzo del titolo in borsa, ne parliamo tra un attimo. L'operazione contro l'Andrangheta, sequestrate 8 tonnellate di coca per un valore di 1.600 milioni di euro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. C'è un'espressione scontata ma forse azzeccata per raccontare questa storia. Il nostro giro per l'Italia ci porta a Roma e l'espressione è una guerra tra poveri. Se lo scenario è quello di via Montecucco, di una palazzina di case popolari, dentro una di queste case c'è una coppia di romani, lei 17 anni incinta, lui 20 anni, un lavoro precario, e dall'altra parte una famiglia di origine nordafricana, padre, madre e 5 figli. Sono questi ultimi i legittimi assegnatari di questa casa popolare, e dall'altra parte ci sono i due romani, i due italiani che sono invece degli occupanti abusivi. Saluto Mario Torelli, che è il presidente dell'undicesimo municipio di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno ai teleascoltatori. Allora, in linea con noi c'è anche Laura Baldassare, che è assessore alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. Buongiorno assessore, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Torelli, che cosa è successo ieri? Da quel che ho capito, una protesta di un gruppo di destra romano e probabilmente anche di qualche abitante della zona ha costretto questa famiglia a rinunciare sostanzialmente alla casa e a lasciarla in sostanza agli occupanti abusivi, è così? Diciamo che ieri mattina, diciamo, le forze di polizia locale avevano ottemperato a un provvedimento dell'autorità giudiziaria per avere indietro il bene che era stato occupato. Diciamo che durante la giornata poi si sono avvicendate alcune cose, vale a dire che gli aventi diritti si erano un po' assentati per poter portare i mobili all'interno del nuovo appartamento assegnatogli, ma hanno trovato l'appartamento occupato, quindi poi si sono avvicendate alcune questioni che riguardano Casa Pound, che hanno, diciamo, manifestato. No, mi scusi, quindi l'appartamento in realtà originariamente era vuoto? No, diciamo che è stato fatto il provvedimento in mattinata, perché poi la cosa è durata tutta la giornata. Nel frattempo che questi si sono allontanati, sembra che è stato rioccupato l'appartamento, e quindi a quel punto non si poteva più procedere all'assegnazione all'avente diritto. Quindi sono intervenuti i manifestanti di Casa Pound e quindi hanno cercato di bloccare quello che era l'assegnazione che doveva essere effettuata. E effettivamente ci sono riusciti perché questa famiglia ha rinunciato. Laura Baldassarre, allora che cosa dice di questa vicenda? Allora, innanzitutto io credo che il percorso per ristabilire la legalità a Roma, come sanno bene tutti i romani, non è un percorso semplice, però noi dobbiamo puntare in ogni sede, in ogni situazione al rispetto delle regole, quindi i legittimi assegnatari devono poter appunto avere, diciamo, le case alle quali hanno diritto. Non dobbiamo però creare contrapposizioni, quindi evitare in tutte le sedi le strumentalizzazioni. E l'azione che noi stiamo facendo è per far scorrere le graduatorie, quindi noi sappiamo che ci sono tante persone che in questo momento hanno diritto ad una casa che non possono averlo perché ci sono persone che senza titolo stanno occupando delle case, appunto dell'edilizia pubblica, quindi residenziale pubblica, quindi ristabilire le regole non è un percorso semplice, ma è l'unico percorso possibile se noi vogliamo garantire a tutti i diritti, quindi non creando queste anche... Ma mi scusi, assessore, però lavorai anche sul caso specifico specifico che cosa intendete fare, perché qua si parla comunque di una famiglia con 5 bambini, no? Sono sette persone. Immagino che se sono assegnatari di case popolari siano regolari in Italia, no? Assolutamente sì, quindi noi non abbiamo appunto tutto questo viene fatto appunto nei confronti di legittimi assegnatari di case popolari. Quindi noi prima di tutto c'è un'informazione da dare, io non so appunto se questa giovane coppia che è stata portata evidentemente in questa sede sappia che occupando una casa perde dei diritti rispetto all'assegnazione delle case popolari, perché questo è quello che prevede la normativa, quindi c'è una grande disinformazione che viene fatta anche da alcuni gruppi politici. Noi vorremmo invece appunto, quello che stiamo facendo è cercare di ridefinire le politiche dell'abitare su Roma, per questo stiamo lavorando anche con la regione, perché come sa ci sono appunto dei fondi stanziati a livello regionale per le case popolari che non sono stati ancora utilizzati, quindi noi dobbiamo dare l'opportunità a tutti di avere una casa, chi ne ha diritto, sì. Questo secondo me è l'azione più importante. E l'intervento sul caso specifico? Sì, l'intervento sul singolo caso, chiaramente queste persone hanno diritto appunto ad una casa, quindi ce la devono avere, ma non dobbiamo, come già avvenuto, ricorderà nell'episodio di San Basilio, creare poi contrapposizioni, quindi anche in quel caso noi siamo andati a parlare anche con le persone appunto che avendo loro delle difficoltà appunto arrivano a compiere dei gesti estremi, però appunto avendo parlato direttamente con queste persone parlando molto spesso sono strumentalizzate e non hanno le informazioni giuste per accedere loro stesse ai diritti in modo legale, quindi questo è un aspetto secondo me fondamentale, evitiamo di strumentalizzare le difficoltà delle persone e delle famiglie romane, italiane o straniere che siano. Il percorso dei diritti prevede l'informazione puntuale e l'azione politica deve prevedere la possibilità di aumentare l'opportunità di avere una casa per tutti, senza alcuna discriminazione. Questo è quello che noi stiamo facendo. È un percorso, però, chiaramente. Senta, assessore, già che ce l'abbiamo in linea, la voglio portare su un altro fronte, che è quello che è successo sempre ieri e sempre in merito, se vogliamo, a momenti di tensione che riguardano la capitale. In via di Salone, ieri, nella fase di censimento che il comune sta attuando dei campi Rom, è scattata una mega rissa con spranghe, martelli, bastoni, leggiamo dalla cronaca locale. Sì, questa è la prova provata della necessità di superare i campi Rom, come sa questa è una parte importante del programma che noi stiamo portando avanti, la prima fase è proprio quello dei censimenti campi per campi, c'è una situazione di mancata conoscenza proprio dei dati anche statistici rispetto alle persone che abitano e in questo può appunto come vediamo anche essere un brodo di coltura anche per poi un'illegalità. Noi faremo un lavoro famiglia per famiglia in questo caso per tornare a dare alle persone che vogliono vivere nella legalità delle opportunità rispetto alla scuola per i propri figli, all'accesso alla salute, all'accesso ai servizi come per tutti gli altri. Queste persone vanno, diciamo, veramente rispettare i loro diritti, significa anche rispettare i diritti delle persone che vivono anche intorno a questi campi. Quindi anche qui il percorso della legalità è un percorso anche molto semplice da delineare. Portarla avanti è più complicato perché a Roma l'illegalità è diffusa e quindi anche una semplice azione come quella di un censimento del campo per sapere esattamente chi ci sta e l'azione successiva sarà l'indagine patrimoniale, sì, chiaramente per capire chi ha diritto a stare lì o chi appunto con le proprie forze può dare a se stesso e al resto della famiglia un'altra opportunità, è un'attività che noi comunque porteremo avanti. La ringrazio. Grazie a Laura Baldassarre, assessore alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. E qualche ascoltatore ci scrive: guardate che ci sono anche molti casi di appartamenti occupati da stranieri nei quali gli italiani non devono entrare. Beh, segnalateceli, effetto giorno, @radio24.it, la mail è aperta, ne abbiamo già parlato in passato, quindi non c'è nessun timore da questo punto di vista. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.